versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti alla versione di Oscar da parte di Oscar Giannino. 16:35 primi 15 secondi, grazie a chi ci ascolta in podcast, continuate mi raccomando, perché così ci fate salire nelle graduatorie di iTunes. Detto questo, oggi l'argomento del giorno, se guardate i siti, le edizioni dei GR, dei TG, sembra che sia uno solo, e cioè come si vota o non si vota per la decadenza di Berlusconi e che conseguenza avrà sul governo. Noi non parliamo di questo, ma parliamo anche oggi, come tutti gli altri giorni, di un tema che riguarda centinaia e centinaia di migliaia di italiani, lo diciamo subito, riguarda le partite IVA, ed è un tema che cambia loro dal 1 gennaio che arriva per anni e anni a venire fino al 2018, ogni anno peggiorerà molto significativamente la loro vita. Io ricordo a tutti che parliamo delle partite IVA, c'è un grande equivoco sulle partite IVA, per anni sono stati additati come gli evasori, eccetera eccetera, l'Italia fai da te e così via. Ricordo a tutti che in questi 5 anni di crisi alle partite IVA, soprattutto quelle centinaia di migliaia che non sono iscritte anche a un ordine professionale, quindi non hanno una propria cassa previdenziale, ma sono finiti ad avere partite IVA, moltissimi precari, gente che scommette su se stessa, ma anche molte volte costretta a scommettere su se stessa per via della crisi, che fa la più elevata congerie diverse di professioni, fa il consulente alle imprese, il consulente tributario, pur magari non essendo iscritto all'ordine dei commercialisti, il fotografo, fa di tutto, la traduttrice, io stesso sono una partita IVA, ma io sono anche iscritto a una cassa previdenziale, quella dei giornalisti. Allora, che cosa avviene? Per effetto della riforma Fornero del governo Monti, norma prorogata di un anno, ma che scatta dal 1 gennaio del 2014 e poi per il 2018 ogni anno si aggrava, che cosa avviene? Avviene che gli oneri contributivi a cui erano sottoposti le partite IVA, che erano il 27% del loro reddito, ogni anno aumentano di un 1% fino ad arrivare al 33%, quindi stiamo parlando di un aumento del 7%, che poi voi capite, in anni in cui la gente fatica molto a pagarti, io stesso ho ricevuto 3 giorni fa pagamenti di fatture dal gennaio 2012, nel frattempo naturalmente lo Stato ti chiede molto di più, e rispetto ai professionisti iscritti agli ordini professionali che pagano una media del 14-15% di oneri contributivi, voi capite che c'è un enorme problema di equità da una parte e dall'altra di diseconomia, di disincentivo rispetto a centinaia di milioni di persone che lavorano scommettendosi su se stessi ed esponendosi ai rischi, come è evidente perché qui non ci sono ammortizzatori sociali, di spremerli. Oltretutto, aggiungo, prima di presentarvi l'ospite, che proprio dalla gestione separata, quella a cui sono iscritti le partite IVA che non contribuiscono ad aliquote più basse alle proprie casse previdenziali professionali, proprio questo fondo, per il suo attivo di più di 7 miliardi di euro l'anno, a furia di spremere, è quello che poi sostiene, dà la sostenibilità ai conti dell'INPS, o meglio, dava la sostenibilità fino all'anno scorso, quando poi mettere nell'INPS anche l'INPTAP, cioè i dipendenti pubblici, lo ha fatto sballare di 9 miliardi, e quest'anno e l'anno prossimo continuerà lo sballo del conto economico dell'INPS. Attenzione, l'INPS ha riserve di liquidità per cui continuerà a pagarvi le pensioni, ma intanto lo squilibrio dovuto al settore pubblico è di queste proporzioni, ed è proprio grazie all'attivo invece del fondo delle partite IVA che si riequilibrava fino all'ingresso dei lavoratori pubblici i conti degli squilibri degli altri fondi previdenziali, come quello dei dirigenti, come quello dei telefonici, come quello degli elettrici, ecco, un serbatoio, e questo serbatoio vede la richiesta di 7 punti in più a cominciare dall'anno prossimo. Intorno a questo c'è una mobilitazione, io vi invito a telefonarci per sentire, siate voi o partite IVA o non siate voi partite IVA, per sentire cosa ne pensate di questo aumento di 7 punti così scaglionato. Numero verde 800 24 00 24, e per parlarne con noi c'è Anna Soru. Anna Soru è la presidente di ACTA. ACTA è una delle sigle che si stanno mobilitando, forse quella che si sta mobilitando di più, per tentare di spiegare al Parlamento che non è il caso di procedere a questi aggravi, e la sigla significa Associazione Consulenti del Terziario Avanzato. Altre sigle che condividono questa battaglia, questa richiesta, sono il COLAP, che è il Coordinamento Libero Associazioni Professionali, la Consulta del Lavoro Professionale della CGL, Confassociazioni, Agenquadri, Alta Partecipazione. Grazie ad Anna Soru di essere qui con noi oggi pomeriggio. Buongiorno, grazie. Allora, Obiezione immediata da un nostro ascoltatore. Però i lavoratori dipendenti hanno gli oneri contributivi al 32%, non è una misura di equità? Qual è la risposta? La risposta è che il 33% che pagano i dipendenti è calcolato in maniera diversa, cioè si parte dal costo del lavoro e si aggiunge il 33%. A noi viene calcolato sul montante, cioè sul centro più il 33% che calcoliamo, cioè è proprio la base di riferimento che è diversa. Con la base di riferimento dei lavoratori dipendenti, se fate un po' di conti a casa, è come se i dipendenti pagassero in realtà il 25% esatto, del loro. Esatto, e noi già paghiamo il 27% per le pensioni, quindi già paghiamo di più anche dei dipendenti, non soltanto degli altri autonomi, come lei ricordava. Tra l'altro anche la differenza con gli altri autonomi ci pone anche dei problemi di mercato, perché spesso abbiamo dei professionisti che sono iscritti ad ordini con casse che competono sui nostri stessi mercati, e questa differenza di costi contributivi naturalmente rappresenta uno svantaggio notevole. Quindi questa è la prima risposta, quindi è iniqua rispetto ai confronti con tutti gli altri lavoratori, siano essi dipendenti, siano essi autonomi. Poi, come lei giustamente ricordava, sono soldi che non serviranno tanto a pagare le nostre pensioni quanto a coprire i buchi e i passivi di altre gestioni, perché noi sappiamo già che col nostro sistema contributivo quello che riceveremo quando andremo in pensione non sarà adeguato a quello che avremo versato, perché la rivalutazione del montante avviene sulla base dell'andamento del PIL. Sappiamo che questi ultimi 5 anni la situazione è stata grigia, ma in generale sappiamo che il rendimento è basso. Quindi continuare a caricare su di noi è ancora più iniquo, perché ci facciamo carico dei passivi di altre gestioni che semmai dovrebbero essere ripartiti su tutta la popolazione, non soltanto su chi attualmente versa. Dovrebbe essere semmai la fiscalità generale a farsi carico di questi problemi, non scaricarli su di noi. Ora, questa misura venne assunta l'anno scorso, cioè anzi un anno e mezzo fa, ai tempi della riforma Fornero. La protrazione di un anno, la sospensiva, chiamiamola così, ebbe accoglienza. Lei crede che si può ripetere? Noi contiamo proprio di sì, ma non solo vorremmo spostarla di un anno, noi vorremmo proprio eliminarla questa voce, cioè non possiamo ogni anno dover combattere per spostarla di un anno, cioè, bisogna che si riconosca che è stata una misura assurda, appunto iniqua, non sostenibile, come lei ricordava, cioè non possiamo farci carico di un peso così elevato, cioè anche partendo da redditi medio-bassi, il carico fiscale contributivo per noi è intorno al 50%, non è possibile aumentarlo ulteriormente. Secondo lei, la chiamiamola cattiva stampa, quindi prendo anche la responsabilità che tocca all'informazione, ma l'immagine delle partite IVA tradizionalmente evocate, quando si dice il popolo delle partite IVA si evoca un po' da una parte una scelta politica, come se fosse obbligata la gente a non votarsi liberamente, e dall'altra anche però insomma, una certa libertà rispetto al lavoratore dipendente nei confronti del fisco. A cosa si deve? È un po' anche colpa di chi non l'ha saputo rappresentare, e perché lo Stato è stato molto abile a metterci gli uni contro gli altri, lavoratori dipendenti col sostituto d'imposta rispetto a noi che invece abbiamo la partita IVA? Come la vede? È un po' un retaggio del passato, nel senso che noi ci riferiamo, parliamo di nuove partite IVA, di nuovo lavoro autonomo, che è un lavoro autonomo che si rivolge prevalentemente alle imprese e alla pubblica amministrazione e che quindi non ha margini di evasione fiscale. Cioè ciò che poteva valere per il lavoratore autonomo che lavora per la persona fisica, per il consumatore finale, non vale per noi non possiamo essere pagati se non emettiamo fattura. Quindi questa idea dell'evasione non è assolutamente adeguata per noi. Ed è appunto una visione un po' antistorica, perché il nuovo lavoro è spesso lavoro autonomo. Questo l'ho sottolineato, esattamente, nella crisi è così, anzi poi la riforma Fornero nel tentativo di lottare contro le finte partite IVA, quelle che mascherano un rapporto di dipendenza esternalizzato, ha ulteriormente complicato la vita a chi poi in realtà fa una scelta invece individuale. Questa è una mia opinione personale, non gliela attribuisco a lei, ma io credo che sia sbagliato. Mentre in Germania e in Spagna per lottare contro la disoccupazione si è incentivato l'autoimpiego, da noi abbiamo fatto esattamente l'opposto. L'aumento del prelievo fiscale dipende dalla sete di entrata dello Stato e le norme che aggravano la possibilità di fare questa scelta con la partita IVA sono, per così dire, dal mio punto di vista, un manifesto ideologico, come dire diventate tutti lavoratori dipendenti, come se non vedessimo poi quello che succede nel lavoro dipendente. Ora ricominciamo tra un minuto dopo l'informazione stradale con Anna Soru, presidente di ACT, Associazione Consulenti Terziario Avanzato. Siamo qui per tentare di sensibilizzare tutti voi in ascolto contro l'aumento di 7 punti degli oneri contributivi obbligatori per le partite IVA. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47, 7 secondi su Radio 24. La versione di Oscar. Parliamo oggi degli aumenti contributivi obbligatori per le partite IVA che scattano dal 1 gennaio dell'anno prossimo fino al 2018, un punto l'anno fino ad arrivare oltre il 33%. Abbiamo visto l'anomalia rispetto agli altri professionisti e anche rispetto ai lavoratori dipendenti. Allora, iniziamo. Abbiamo con noi Anna Soru, presidente di ACTA, che è una delle associazioni che si battono contro questo aumento. Ci sono due rapide telefonate di ascoltatori. Cominciamo con Marianella che ci chiama da Milano. Prego Marianella. Salve, io sono una commercialista da quasi 30 anni e devo dire che un massacro di questo genere raramente l'avevo visto, perché forse non avete sottolineato il fatto che chi apre la partita IVA l'anno successivo, quando deve pagare le tasse per il discorso degli acconti, esatto, si trova praticamente a pagare il 100%, esatto, quindi deve considerare il primo anno di non poter avere neanche un euro da tenere a disposizione per la sua vita. Questo è un'ulteriore misura di disincentivo all'autoimpiego, come non come solo, ma se non viene avvisato prima dal professionista che lo segue, perché non se lo può immaginare, si trova nei guai poi. Si trova subito immediatamente coperto di cartelle. È una cosa veramente vergognosa. Io ripeto, in tanti anni di professione una legislazione così assurda non l'avevo mai vista. Grazie tantissimo Marianella, perché questo è un altro degli aspetti, per voi lavoratori dipendenti che ci state ascoltando, da considerare. Carlo da Cremona, prego Carlo. Buonasera Giannino, niente, io sono 35 anni che faccio il professionista, nel senso che vendo, sono venditore, e tra l'INPS, che ormai è alle stelle, e Nasarco, che è un'altra cosa che paghiamo, che sta andando su anche quella lì, il 98% di tasse anticipate un anno prima, l'IVA, lo studio di settore, il redditometro, il riccometro. Secondo me loro stanno aspettando che qualcuno, qualche gruppo di persone parta e vada a prendere i soldi da quella gente lì, perché noi non siamo più in grado di andare avanti. Carlo, naturalmente attenti, perché ovviamente bisogna rimanere nella legalità, lo Stato la legalità la fa lui per sé, a proprio vantaggio, e quindi già ieri, per dire la cosa che ho detto di fronte agli imprenditori che protestavano nel Veneto, di considerare che copriamo la loro eventuale decisione di procedere come atto dimostrativo insieme e autodichiarandosi a una protesta fiscale, già mi sono arrivate tirate di orecchie. Io continuo a pensarla così. Allora, torniamo con Anna Soru, presidente di ACTA, a chiederle concretamente come è possibile, per chi ci ascolta e ci chiede, dare una mano, si firma da qualche parte, c'è un appello, in che cosa consiste concretamente la vostra mobilitazione? Ho lanciato una raccolta firme un paio di settimane fa, e abbiamo raccolto oltre 12.000 firme, tenendo conto che col passaparola, quindi non è banale, e da qui è nata poi la sollecitazione a promuovere un'azione unitaria coinvolgendo anche le altre associazioni che rappresentano questo mondo. Quindi abbiamo firmato un appello unitario che abbiamo inviato al governo, e dopodiché è stata lanciata anche un'altra raccolta firme per raggiungere coloro che non erano stati raggiunti. C'è un sito prima. Il sito della sua associazione? Il sito della nostra associazione, sì, da www.acterrete.it, in home page c'è la possibilità di collegarsi e firmare la petizione, quindi la raccolta, di contribuire alla nostra raccolta firme. Da questo punto di vista, in questi ultimi anni di crisi, il rapporto con un'associazione come la sua, si occupa, rappresenta consulenti del terziario avanzato, con le organizzazioni del sindacato confederale, quindi del lavoro dipendente e pensionati, è cambiato, è migliorato, è peggiorato? Che evoluzione ha avuto? Allora, noi siamo nati ormai nel 2004, quando non esisteva nessuna organizzazione che rappresentasse questo mondo. Poi negli ultimi anni sono entrati altre, fra cui alcune associazioni che sono di derivazione sindacale. Abbiamo una genesi diversa e una storia diversa. Questa diciamo che è la prima iniziativa congiunta che facciamo tutti insieme ed è per questo che... È un po' anche una palestra per vedere se i rapporti possono davvero poi portare insieme... Noi speriamo di sì, che ci possa trovare almeno su certi terreni la possibilità di fare un lavoro comune, perché chiaramente questo riesce a rendere molto più efficace. Perché diciamolo in chiaro, lo dico io, Presidente Soro, non lo faccio dire lei, ma insomma i sindacati rappresentando dipendenti e pensionati da questo orecchio, almeno fino alla crisi, non ci hanno sentito molto. Loro rappresentano altri, però sul lavoro autonomo hanno spesso contribuito ad aizzare le demagogie e le scelte della politica. Questa è la mia personale opinione in tanti anni. Abbiamo un altro ascoltatore, Giorgio da Livorno. Prego, Giorgio. Buonasera Giannino, buonasera a tutti. Io sono completamente d'accordo con lei, io faccio l'agente di commercio come il collega che ha parlato prima. Noi non siamo, anche noi siamo tartassati, tutti gli anni ce l'aumentano l'aliquota, perché tutti gli anni aumentano il livello di reddito su cui paghiamo INPS e contributi, pertanto anche noi facciamo parte di questa famiglia di disgraziati delle partite IVA, ed è una cosa vergognosa, perché poi noi non ci pagano le provvigioni se non facciamo la fattura. Cos'è che evadiamo? Perché dobbiamo essere evasori? E soprattutto, quando non ci pagano, chi ci difende a noi? Nessuno. Siamo quasi ridotti alla fame. Io ho 61 anni, l'anno prossimo dovevo andare in pensione. La Fornero mi ha rubato anche la pensione, ma stanno tirando un po' troppo la corda, rischiano parecchio questi signori, ma lo sanno, Giannino? Eh sì. Soro, Presidente, qualcuno ci chiede in un messaggio, ma non sarebbe pensabile per voi proporre alla politica una aliquote differenziate per livello di reddito, aliquote contributive? Ma le aliquote contributive sono proporzionali, a misura abbiamo un'imposizione che è regressiva, perché si versa la contribuzione pensionistica fino a circa 90.000 euro, sopra i 90.000 euro non si versa più. E questo rende la questione ancora più iniqua, se vogliamo. Se no, no, perché per spiegare a chi è a casa, voi capite che chi sta sotto 90.000 euro o arriva fino a 90.000 euro, come ovvio, paga in proporzione al reddito disponibile con l'aliquota obbligatoria in quella soglia, più di chi invece c'ha di più, come è evidente. Esatto. Quindi questo è un altro elemento di iniquità, nel senso che le cose sono due. La contribuzione pensionistica serve soltanto a garantirci una pensione, ma allora ci dovrebbe garantire una pensione adeguata, cioè una pensione remunerativa. E non dovrebbe servire ad appianare, in gergo tecnico si dice, il pay as you go delle altre gestioni. Delle altre gestioni. Se invece va ad appianare i passivi delle altre gestioni, allora è un onere e dovrebbe essere ripartito su tutti in maniera progressiva e non regressiva. Questa è una delle ragioni per le quali, quando si sottolinea che il conto economico dell'INPS dall'anno scorso, quest'anno, e per le previsioni dello stesso ente che lo vigila per i prossimi due anni a venire, è in un disballo di conto economico di 9-10 miliardi di euro l'anno, all'INPS si imbufaliscono, perché ovviamente capiscono che chi lo sottolinea come me è totalmente a ragione, dà ragione a chi ragiona come il Presidente Soro. Perché, come vedete, noi abbiamo scelto un contributivo che continua a chiedere a chi starà solo col contributivo di ripianare le perdite di chi ha pensioni fatte con il retributivo. Doppia ingiustizia rispetto al livello più basso del contributivo, quando matureranno i trattamenti rispetto al retributivo. La politica vi ha risposto, Presidente Soro? Abbiamo fissato un incontro lunedì 4 con il Vice Ministro Fassina. Nel quale? Nel quale noi contiamo di chiedere appunto un'iniziativa per bloccare i contributi. Vedremo che cosa vi dice, vi ricordo questa tutto. Questa è la prima risposta, noi contiamo anche di poter andare in commissione lavoro oltre che parlare col bilancio. Esattamente, perché io credo che più che il governo, oramai in questa legge di stabilità e in un Vietnam parlamentare, a maggior ragione dopo le audizioni di Banca d'Italia e del Corte dei Conti ieri, e come si vede un fiorire di emendamenti, quindi il problema per voi sarà farvi ascoltare soprattutto dal Parlamento. Sì, voglio aggiungere un'altra cosa, cioè si sta intervenendo sul cuneo fiscale, ma sempre solo con riferimento ai dipendenti, cioè anche questo è una ennesima prova di un mondo della politica che guarda ancora soltanto al lavoro del secolo scorso, certo. Che non ha in mente il nuovo lavoro. Allora, io ringrazio il presidente di ACTA, Associazione Consulenti Terziario Avanzato, Anna Soro. Ricordo a tutti, andate sul sito di ACTA per guardare l'appello e firmare. Rispondo anche a un ascoltatore che giustamente dice: ma come, Giannino, lei era favorevole alla riforma Fornero? Certo, io ero favorevole a innalzare, come non aveva fatto la politica per troppi anni, l'età per i rendimenti tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia. Non ero favorevole ad alzare in questa maniera il prelievo per chi pagherà di più dei lavoratori dipendenti e molto di più dei professionisti. Di questo stiamo parlando oggi. Continuate su Radio 24, appuntamento a domani.